cambiamo argomento. Quando nel 1804 il nobile inglese Thomas Bruce, conte di Elgin e Kincardine, ambasciatore di re Giorgio III presso il sultano di Costantinopoli, acquistò dalle autorità ottomane locali quanto restava delle sculture dei frontoni e del fregio della cella del Partenone di Atene, pensava probabilmente, oltre che a fare un buon affare, perché quei marmi gli vennero ceduti per il controvalore del loro peso in calcina, di rendersi benemerito dell'arte e della cultura. Atene era un paesotto per cui non passava nessuno, l'Acropoli era un mucchio di rovine, destinate normalmente alla calcinazione, che spiega il prezzo, e il Partenone, che aveva già sopportato maluccio la trasformazione in chiesa in età cristiana e quella in moschea sotto i turchi, non aveva retto all'energico trattamento cui aveva sottoposto nel 1687 quel noto umanista del generale veneziano Francesco Morosini il Peloponnesiaco, che assediando la piazza forte, apprendendo che i turchi in quel bel tempio avevano accumulato esplosivi, lo fece bombardare e chi si è visto, si è visto. Quanto del Partenone resta in piedi, anche se i turisti non lo sanno, è stato raddrizzato nel secolo scorso. Portare le sculture di Fidia a Londra, dove invece di finire nella più vicina fornace avrebbero potuto essere debitamente ammirate e studiate, dovette sembrare al nobile acquirente un'azione meritoria. È vero che Lord Byron l'avrebbe definito vandalo e saccheggiatore e che i funzionari governativi avrebbero messo a lungo in dubbio i suoi titoli di proprietà, ma Byron notoriamente era amato dalle gare e il governo britannico alla fin fine, dopo 12 anni mi sembra, avrebbe finito per acquistare l'intera collezione per collocarla al British Museum, dove si trova tuttora. Al povero Lord Elgin quell'azione non portò fortuna. Quando era ancora proprietario legale dei marmi finì in mano a Napoleone, che ritenendo che Fidia si sarebbe trovato meglio a Parigi che non a Londra, lo tenne, Lord Elgin, non Fidia, 2 anni in galera nel vano tentativo di estorcergli il malloppo. Poi non vide neanche uno scellino della cifra pagata dal governo e morì in esilio, povero in canna. E soprattutto non riuscì mai a liberarsi, né da vivo né da morto, di quelle accuse che Byron gli aveva scagliato a suo tempo. Per quasi 2 secoli innumerevoli cultori dell'ellenismo e della classicità hanno inveito contro di lui, considerandolo un bieco razziatore di beni culturali altrui. Io che di cultura greca non sono completamente digiuno, però non c'entro molto, non sarei completamente d'accordo, ma non è per questo che ve ne parlo. Ve ne parlo perché, come senz'altro saprete, i marmi Elgin sono al centro da almeno mezzo secolo della disputa internazionale tra il governo britannico e quello greco, che li rivuole indietro. E su questo si è pronunciato questa settimana il Parlamento europeo, che con una mozione ha invitato Londra a provvedere alla restituzione. Il testo del documento non è chiarissimo, afferma che il Partenone appartiene al patrimonio culturale mondiale ed è parte integrante del patrimonio architettonico europeo, su che non credo si possa dubitare, e conclude che la restituzione alla Grecia costituirebbe un forte segnale nella promozione del patrimonio culturale comune europeo, che invece è espressione un po' enigmatica, e afferma che anche da appositi sondaggi risulta che il 90% degli inglesi sarebbe d'accordo, perché mi permetterò di dubitare, e comunque non è un argomento pertinente, perché l'unico problema che potrebbe interessarci è uno solo, è quello del perché, perché diavolo di motivo quelle venerate sculture dovrebbero tornare in via definitiva ad Atene. Per riprendere il loro posto sull'Acropoli, no. Il Tempio d'Atena è sopravvissuto alla marina da guerra veneziana, ma non sembra capace di sopravvivere a lungo all'inquinamento da traffico. Come è successo alle cariatidi dell'Eretteo, le sculture di Fidia finirebbero certo in un altro museo, probabilmente nel centro studi dell'Acropoli, quello che si sta allestendo all'angolo tra Macoiani e Dionisio Areopagitu. Da un museo all'altro, non sarebbe un trasferimento tanto significativo, e nell'età della riproducibilità tecnica dell'opera d'arte, in fondo, dove stiano gli originali non dovrebbe importare molto. Tanto è vero che già adesso in quel centro sono esposti dei pregevoli calchi per la gioia di studiosi e turisti. Sì, dicono, ma quegli originali dovrebbero stare ad Atene. Ad Atene, dove sono stati concepiti e scolpiti, sotto lo stesso cielo, magari un po' più inquinato, ma sempre quello, in mezzo ai discendenti del popolo cui apparteneva il suo creatore, tra gli ulivi e i cipressi. in Dionisio Rocca per Ghitu ce ne devono essere ancora due o tre, e non tra le nebbie di una lontana città settentrionale dalla quale sono state portate con un gesto di volontà predatoria che testimonia ben poco. Io non vorrei che i miei amici greci se la prendessero male, ma io quei marmi li lascerei proprio dove sono, a Londra, come espressione di gratitudine per Lord Elgin che vi ha salvati, e anche come solenne affermazione del fatto che non appartengono a quelli che li reclamano. Non voglio dire che non che le sculture di Fidia non appartengono al popolo greco, questo non credo che si possa metterlo in dubbio ragionevolmente, ma il fatto che non appartengono solo al popolo greco, appartengono anche a me, ad Accame, appartengono a tutti noi che le amiamo ovunque siano materialmente collocate, a tutte le civiltà e le culture che riconoscono il loro debito nei confronti della Grecia classica. Londra non sarà la loro collocazione ideale, anche se ci sarà un motivo per cui l'architettura del British Museum è vagamente ispirata a quella dei templi greci, ma lì sono finite per i giochi della storia e lì è bene che restino. I greci di oggi rivendicano nei confronti di quell'eredità comune uno status privilegiato e siamo lieti di riconoscerglielo, ma non possiamo riconoscere al loro governo un diritto di proprietà su quanto i loro antenati hanno prodotto. Abbiano pazienza, siamo già afflitti abbastanza, oggi come oggi, da chi afferma i propri diritti di proprietà su tutto, incluso la terra su cui camminiamo, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo. Non possiamo accettare che qualcuno con le migliori intenzioni del mondo affermi di essere proprietario di un pezzo del nostro passato.